Ma c'è un posto? No, no, il vetro non è paratango, di Sassari. Serve una bomba, ecco. Si è messo di Sassari e Franco California. E sono a casa di Franco California, ciao. Ma paga, paga, salutalo. E vabbè, salutoni. Comunque, Antonè. Ehi, dimmi tutto. La questione procurata. Quale? E quale? Già me l'ho detto, l'altra già scordato, dove sì. Nel tubo, te dice, non ce l'ho a casa. Mia moglie si è buttato via a Porta Canna. Lasciando l'invita ai paese, fatti trovare. E non c'è problema, ma meno male ci sentiamo all'apparato e... Però già te l'ho messo da parte, non ti preoccupare. Ascolta, ho contato anche da parte tua, qual è la protesia? Come sta uscendo? Se è distorto oppure no la modulazione? Sta arrivando a 9.25, radio 5. Non è distorta, no, va bene con la modulazione. Sì, ottimo, ottimo per la truppa. Perfetto, già fungerai. Aspettate, sono amplificata la radio. Oh, già. Comunque tu non sei a casa di Franco California perché troppo basso è segnato. Gianni. Ehi. Avevi ragione con la questione di che ne stavo parlando. Tu non lo so a cosa stai riferendo. E se mi hai capito, io ti faccio solo una sigla, Alghero. Ah, avevo ragione. Scappa. Io sono l'uomo che ha vissuto qui, mi sozzo. Ma stasera l'ho telefonato e ho detto tutti i colori, già. Cosa ti ha detto lui? Ma ho trovato la scusa che non aveva soldi, non c'era nessuno, di dargli una settimana di tempo che mi avrebbe procurato i soldi, hai capito? No, no, no. Tu che cosa devo dire? Che lo denunci se non ti pare. Ho detto, di fronte a mia madre, ho detto, guardi, io l'ho tempo una settimana, se lei non mi dà il sole entro qualche settimana, io sto andando alla CGL e lo sto denunciando, e poi vado all'ispettorato del lavoro. Punto e basta. E poi ce la diano loro. E dove sono tradito? Così non si fa, no, come non si fa? Come mi sta trattando lei, non ho capito, mi sta trattando lei, sono a piedi, sono senza assicurazione, non c'è niente, sto uscendo a piedi, ho detto mia madre non c'è, e sto campando dall'aria, vai da poi cosa devo fare? Attenzione Antonello di Ussilandia. Aspetta un attimo Antonio. Faccio salire su di due canali che mi fa un controllo. Antonio sali di due canali se ci sei. A me stai dicendo? Ma sali un attimino di due canali. Sette. Hai capito già? Gianni. È bastardo. È un bastardo veramente, guarda. Non me l'aspettavo da lui questo, Non me l'aspettavo proprio. Ma io sì. Cosa cazzo vuoi fare? Cosa fare? Guarda da giù e mi dà una pistola all'ammazzo. Oh, quello no. Dillo, ho voluto rubare, se no come mi avevo pagato. Vabbè, comunque sono a casa di Alessio, o già. Oh, l'avevo capito. Hai capito la segnale, no? No, sta arrivando basso. Santa Gloria, non arrivava più forte di prima. Conosco, adesso glielo dico Antonello perché sta arrivando così basso. Non arrivava a 9.10, 9.15, adesso arriva a 9. Sai che fungeva di più l'altra l'antenna? Ti stavo dicendo, quel portacana te l'ha buttato dalla finestra mia moglie. Non vieni a prenderti. Vanni. Oh, Giuseppe. Attenzione Gianni, lo più ru. Ehi, adesso sta fischiando. Come sta uscendo adesso, guarda. 1, 2, 3, 1, 2, esatto, se 9,5 o qualcosa. E K, già va bene, da. Ok. Adesso è 9,15. Adesso è 9,15, vero? Ora, ora, prova, controllo. Adesso va bene. Cosa c'è, mi va più basso. Lei già? Mi va più basso a me. Oh, stavo provando il macchino di Alessio, questo internet, quello che stava a mettere a posto, vai. E dunque sono salito per metterci d'accordo per fare quel lavoro là. Ma perché non ti vuoi un dipolo ben fatto? Non ti conviene? Piuttosto che mettere tutte queste antenne e cose per voi riprovare, ti fa di polo ben fatto. Ma quello per piccare ti deve essere così. Andiamo di polo. Non ti ho capito. Piccoli, stai in escando. Adesso, quello che va prima di polo, no? Cioè quello che va prima invece in verticale, non di polo. Per la mia. Tanto, prima le bazooka sto parlando io, la quella che era la pesca, anche l'altra, quella è un dipolo lì, messo in verticale. Ma pure rovesciata la dovresti mettere. Guarda, tu sul carpetto la mettiamo pure rovesciata, vedi tu dice anche tu ti puoi meglio su che tre. Ciao con voi, buonasera. Buonasera, un bolino. Attento con voi, se mi compri per lo controllo. Attenzione, Sierra Sierra. Ciao Gianni. Buonasera Sandro, buonasera anche a te. Avanti, in compagnia di Pomponi o di Antonello da Pussi, poi chi c'è rimasto, anche Grob. Ciao Pomponio, buonasera lì a Ossilandia, se riuscite a tirarmi fuori, io vi ascolto un po' bassini, un po' bassini, vediamo un po' Ossilandia. Ehi, buonasera, dimmi tutto. Perché sto uscendo male? Non è che sto uscendo male, è troppo rimbombante come modulazione. Aspetta, così va bene? No, non lo so, magari devi giocare su Mike Gain. Non lo so, ma hai cambiato Mike? No, no, no, ho fatto un po' di lavorata, sto usando la 68S. Guarda se va bene così. Aspetta che regolo un po'. Guarda se va bene così. Avvicinati di più al microfono. Da parte mia. Troppo rimbombante. Aspetta, guarda un po', aspetta che regolo qua, guarda se va bene adesso così. Mamma te, perché dentro una camera magari è l'effetto camera qui. Andando troppo lontano, se si avvicina va bene. Infatti. Va bene adesso. Avvicinati al microfono, Antonio, se no fa l'effetto camera. Ehi, guarda adesso, 1-3-1-2-3-1-2-3. Va benissimo, dai, per me va bene. Ora l'effetto camera non c'è più, se tu lo tieni troppo lontano dalla bocca, ti fa l'effetto camera, si sente proprio l'effetto eco, rimbombo nella camera. No, perché siccome sono seduto in poltrona, c'è un po' la mano lontana. Guarda, se mi copri adesso bene, Porto Torres. Se no attacco la 12.30. Comunque quello è un microfono amplificato. No, c'è un microfono normale. Ma se vuoi ti attacco il Proxel. Io ti metto che la volta scorsa ero troppo, come avevi detto, un po' col satura. Allora ci ho messo l'altro, ti ricordi che avevo fatto la prova? Sì, ma è un po' amplificata la radio. Se vuoi ti faccio il provo l'altro, cosa vuoi che ti dica? No, sicuramente l'apparato gli avevo messo la mano addosso di nuovo, lo stavo provando per quello, capito? Per quello ho chiesto una prova. Che cosa gli è fatta? L'ho trovata regolata in vate direttamente all'interno, non so cosa gli hanno messo, e poi devo comprare, adesso mi ricordo l'altro pezzo, cos'è? Lo porto dall'Antonello. intendo per mettergli le bande laterali, adesso c'ho canali base, devo mettere i canali alti ed è completo alla fine. Adesso mi ricordo come si chiama quel pezzo lì. Scheda del camera. Ah, un diodo. Porca miseria. Antonello, come si chiama quel pezzo che devo comprare dalla GDC? Ma da Pusaro. Pedivella. Ma non è la pedivella, è la pedivella. È un pezzo rettangolare che ti, che con i vecchi apparati quando lo pulivi ti cambiava di canale e poi lo rimettivi, dipendeva sempre dalla, dal numerino che rimane da sombrico. Il quarzo, un quarzo devo comprare, mi permetterei i canali alti. Ah, non capivo cosa volessi dire. Ho capito, io invece avevo il baracchino aperto, ci sono 23 canali, poi toglievo un canale e mettevo l'altro, c'era il 14-3 trasmissione e cambiavo canale così. Ah, io ci metto, infatti mi ha dato il codice, metto quello, c'è anche i canali alti, cioè bassi e pure gli alti, ed è completo. Quanti canali ti ha messo? Ah boh, io ho preso viaggio a 34 canali, poi ho fatto la modifica, arriva fino a 40 adesso, in canali bassi, e poi non lo so, mi devo mettere quel quarto lì, andavo in canali alti sempre dall'1 al 40. Bella, ritirata. No, ancora no, la verità, l'ho chiamato e mi ha detto che era sotto mano, così metto stasera quando l'ho chiamato verso le 5 e un quarto, ho detto che era sotto mano. E facciamo sapere a giorni, adesso vediamo un po'. Appaga, speriamo che ti soddisfi. Ah, già mi sembra una persona abbastanza seria. Seria e preparata soprattutto. No, sono contento, grazie del consiglio. Figurati, quando si può. Io il mio l'ho portato da lui e mi avevo cambiato i finali e il modulatore, ma dopo che l'ho sentito da Porto Torres un giorno che stava provando perché la stava allineando tutto, mi ha chiamato e mi sono rassussato. Mi ha detto, ma con che appare stai scendo? Con il tuo? Carattere! Beh, com'è non lo stai più usando? Perché la verità non ti ho mai sentito con quell'apparato. Perché adesso che cosa sto usando secondo te? Ah, basta, ti chiedo scusa. E questo è il Galaxy. Già funziona abbastanza bene, la verità, è una bella modulazione. Però almeno sentivo un pochettino fiata, la verità, sì, bella, pulita, ma abbastanza fiata. Adesso vediamo un po' cosa ne c'è fuori, dai. Dai, facciamo girare gli altri. Attimo, Antone, io dico una cosa, ma mi volevo mettere anche i finali da 100 watt. Metto la prossima volta, ti metto quelli da 100 watt, ti faccio vedere come esce quella parata. E poi alla fine l'ha lasciato normale, alla fine. Sì, gli ho fatto mettere gli originali, perché io sono un po' tradizionalista, mi piace lasciare la roba com'è. No, no, lascia perdere, già hai fatto una buona scelta, sto uscendo bene veramente, dai, io voglia. Allora, ma questo qui è il Galaxy, dai, è stato un ecco però, l'ecco del microfono adesso, poi se io voglio io faccio sentire l'altro di ecco. E diciamo il suo incorporato alla fine. Kappa. Vai, dai, avanti alla ruota, che sono un po' in disparte. Buona diretta. Ecco, adesso questo qui è quello dell'apparato, guarda. Allucinante, un bel forte, cambia un bel po', è molto accentuato, però ti dà la modulazione più forte. Davvero? Qual è il migliore secondo te? Diciamo, l'altro è, come ti posso dire, più lieve, dai. Questo è molto, molto dalla radio, molto più potente, non so se l'hai messa a manetta, però. No, questo qui non è regolabile, praticamente posso cambiare. Ah, questo è molto più forte, però è troppo accentuato l'eco. Però la modulazione va molto molto più forte, un bel po', almeno il doppio di quella che stai usando adesso. Ma poi ma ho visto che anche così va bene, va. Questa qui è la doppia, il doppio eco, come va a fare il microfono? È un bel forte, però bisogna cercare di tirare fuori le parole perché sia troppo accentuato. Ah, lo lasciamo così che sei tranquillo. È una bella cosa, No, comunque c'è delle belle possibilità di modulazione e cambia abbastanza. No, funziona veramente bene, dai, complimenti. Questa è la mia chicca, ne ho avuto 5 di questi apparati. Ah, c'è una bella storia, Adesso vediamo un po', cosa ne si fuori col mio, dai, vediamo un po'. Dai, avanti gli altri per non metterli in disparte. Ah, avanti, chi chiama Giovanotto, avanti. Sento collega, se ascolti la Sardegna, cambio. Negro Dio. scappa, la propaganda se ne sta andando, vai, vai. Ti salutiamo, buon trabacco e buon continuo trabacco, vai. Ci sentiamo, ben sentito, su 351, la rotta di Sassari ti super cordializza perché non ti sente più. Contraccambio a tutto, vai, buon continuo trabacco, avanti go. Baroggio, accendiamo anche il fischietto, non l'hai sentito? Ma lo ignoro. Hola, hola! Hola, hola, avanti, mi hermano. Hola, mi escuchas? Lo facciamo, perché la persona ci divertiamo. Vai, vai, tiralo pure. Ma chi è questo qua? Attenzione, Cardellino. Cosa è mangiato? Cagliura, ora. Ti ascolto, da dove moduli? Buonasera, sera 351. Ah, dalla Francia. Non so, buon amico, come si fa? No, no, non dalla Francia, ho detto sulla grande, sull'autostrada. Siamo qua, adesso non mi ricordo come si chiama il posto, adesso te lo faccio sapere. Ma dove ti trovi tu? Sassari, nord Sardegna, città Sassari. Possibile, io sono sassarese, voi di quei robe di sassarese, di robe di sassarese. Ma passo la sassare, se non ti avrei detto che sono a sassa. Ti ascolto abbastanza bene, dai. Mancate di correre, vi ascolto bene. Sono in compagnia di altri amici, c'è anche Antonio da Ussi. Avanti, Antonio. Ehi, buonasera, se mi copri con Antonello da Ussi, sempre zona Sassari, se mi copri con la buonasera. È copiato l'audio di lui, ha detto qualcosa, perché è mezzo PRM il tipo. Avanti, l'amico, io lo copio, avanti, l'amico. Allora mi ha copiato, no? Lo ascolti Antonello da Ussi? È un pochettino Antonello che ti ha ascoltato, va, poco. Gappa. Dove vi trovate esattamente l'autostrada? Al centro della carreggiata. Avanti, avanti chi chiama Sassa. Quanti gli ammassassari? Sei in bocca? In mezzo alle montagne. Ah, su per le montagne. Antonio, senti, la certi mette la partante. Sì, vattene da quella casa finché puoi, mi. Perché? Cosa ci sono, pilopide? Non è frequentare brutta gente, dammi retta. Ma la cena, freddato. Guarda che poi si trasforma, che è omosessuato. Ai, ai, ai, ci manca qualcuno che ci deve mantenere la candela, Mica hanno detto a passare un po', a ritirarti la tessera, quelli dell'arcighi di Via Roccofello. Allora c'è anche tu, come fa a sciare? Purtroppo ci abito di fronte e tira pieno la faccia. Non sei. C'è un innesco più grande di te. Attento Pomponio, se mi copri te lo controllo anche da parte tua. Ti fa parlare un po' la frequenza, va per dire che 15.04.15.15, invece oggi è stabile perché cioè più fresco e stabile, proprio non si muove di un millimetro. Ma dici di sbattere temperatura mi cambia la modulazione? No, le derive termiche non è che cambia la modulazione, fanno oscillare frequenzimetro da 0.15, 0.14, 0.13, capito? Invece perché soffre un po' di deriva termica? Penso che sia una cosa normale per tutti, penso, sì. Diciamo chi riesce a capirlo, vai. Sì, sì, è normale, perché la frequenza rimane sempre giusta, è solo il frequenzimetro che balla, capito? Ecco, sì, sì. Antonio, presidente della CGI, a te a CGI. Era là. E beh, mi sa come ti sei con Antonello? No, mi ha lasciato il suo numero di cassa, quindi preparatevi perché o domani o dopo ci incontriamo un attimino per fare il punto della situazione. E vabbè, non c'è problema, sei il ciclo della CIG, sei stato aperto per noi. Tanto la prima sei tu maschi siamo noi, quindi ti chiamiamo subito. Però non ho capito perché poi di spalle ci sei sempre tu, comunque già va bene. Ascolta, zio Pompo. Dimmi. Niente, vuoi che lo controllo a vedere se da parte tua come sto uscendo? Bene. Perfetto, va. Aspetta così, guarda se va bene così, è troppo esagerato, vero? Oh, va benissimo come radio, perfetta amplificata. Perfetto, va. Aspetta un attimo, non c'è di mia sigaretta, 2 secondi arrivo, va. D'accordo. Oh Pompo, secondo me sta saturando un pochettino. Trattando? No, non sta saturando, è amplificato parecchio, perché altro, non è che sia saturando. Io invece se saturare con l'altra strana, con che volume mi dei problemi? Questo no. Il problema è che in una ruota, nel momento in cui ne senti uno più alto, uno più basso, uno più amplificato, l'altro che arriva a bomba, cioè è anche poco piacevole modulare, capito? Perché devi sollevare a passare, passa pure dire i cuffi. Con le cuffie cambiano. Appunto. Che mi posso anche regolare il vostro volume, il problema non c'è. Non è quello, è che una volta che tu lo regoli dovresti trovare una media fra tutte le modulazioni. Se no a seconda di quanto è potente, dopo 5 secondi c'è il mal di testa. C'ho le cuffie, ma il testa non ne ho. Adesso non lo sto, né toccando né nulla. Lo tento, passo per tutti e va benissimo così. Già va bene, giallo. Sto guardando su internet, ci sono dei lineari di potenza 4000 watt. Che però 4000 euro costano. Ci ho preso l'apparecchio nuovo. Poi quelli che poi ti cambiare anche la luce di casa. E ti incrocia, non so di quanto ne costate 3000 lì per cambiare il contattore. Ma infatti. Ma guarda, c'è qualcuno carino da 600 watt che non te ne fai nulla, cosa ti serve? 600 watt costa intorno ai 150 euro, 200 euro. 200 euro, 600 watt. Ballata sui beni, guarda, se non hanno aumentato lo trovi, stava anche per cadere. Ecco, avanti. Policina. Avanti, break. Buonasera a tutti. Buonasera, policina, ben sentita. Ma triste, è una policina. Non è policina, come fai a essere policina già? È Patrizia, ciao Patrizia. Buonasera a tutti. Già lei è stato fulminato, l'ha già buttato subito, l'ha pigliato qui a Gianni. Buonasera Patrizia, ben sentita, ben ascoltata, da questa parte Antonio il Grotte. Buonasera Antonio Grotte, io sono Patrizia, chi è Pollicina? È un'altra modulatrice. Parla Leoncino che ti super saluta, buonasera. Ho preso una base io, parti buonasera, comunque ben sentito. Ho preso una base io perché mi ha portato fuori strada Alessio. E Alessio che ha nominato la policina ma non ce l'ha. Beh dai, ti perdono, non è successo niente. E va, non c'è problema. Non volevo essere scortese e niente. Va. Avanti di nuovo, Patti, meno male che ogni tanto moduli anche tu, Anni. Anche. Come stavi cercando? Dai, ogni tanto ti penso. Carino che sei, ma io te l'ho detto che sto sempre in ascolto, anche se non entro sono sempre in ascolto. Mi fa sempre piacere, dai, sentire delle luci femminili mi fa sempre piacere. Non lo nego, perché questa frequenza prima c'erano tante donne, però poi piano piano, diciamo, è scomparsa un po' anche questa passione. C'era una che mi seguiva tutte le parti e mi diceva come l'ho vestito, che macchina c'avevo, dove l'ho parcheggiata, dove c'avevo dentro la macchina, non capivo mai chi era. E stolti, ma era Alessio vestita da donna? No, non era Alessio, era una donna. Mi diceva che se stavo bene, se mi piaceva il golfo che c'avevo, e tutto un altro. Però non ho mai capito chi cavolo era. Ma se non l'ho capito. Tu vestito da donna? No, credo, quel periodo, a parte le donne c'avevo su 14, invece tu manco si stivi. Ma cosa c'aveva per caso? Il cane e un bastone questa qua? Io non so dire a lui, il solito lui ci va in macchina a cercare le donne. Poi a Zegiga? Dimmi. Antonio, guarda che ti metto la portante. Non è che l'ho cercato, non è che l'ho cercato. Ci uscivo, Ale. No, c'entravi al limite, non ci uscivi, perché mi frutta malicomio. Datevi, moderatevi che ci sono grecoelle. Io non ho detto niente di male, ho detto che ci uscivo. Ma infatti hai detto, vabbè, avanti Patrizia, perdona. Dici a me? Patrizia. Dimmi. Cattivo, sto dicendo, riprendi la parola e fai girare. Io vi ho sentito, però non faccio caso alle cose che dite, comunque. Continuate, continuate, mi interessano queste cose. Fai bene a non tenerne conto. Avanti Alessio. Sì, rimando. Solito scurrile questa Alessio. Ma io non c'è niente, è stato autore a dire parolacce, non io, mi non mi ci mettete in mezzo tutti e due. Bravo, fai da bravo, fai da bravo. Sempre me lo ripeto in mezzo voi. E ormai sono quei due e ci passo sempre io. Ma non è possibile, raga. Ma ce n'è più ormai, e ormai c'era quando c'era. Come ti si chiamava? Quello che c'era la roba. Ah, Elisabetta Cali stasera, o George Clooney. E quello che gli piaceva con la tipa del porto. Ah, cosa? Già ho capito, non me lo ricordo già. O io. Tarita, va via. E vabbè, ma sai che le cose si vedono solo con gli occhiali tondi. Lo so. Antonello, va. Antonello in questo momento è impegnato. Ma cosa sarebbe se la fai in piatta? Intanto ci vuole, no? Certamente, sì, lo faccio io. Pago che li fai allora, ma lui non lo fa mai. Ho conosciuto i piatti, con le sue piatti di volo a fare lui. Se si sta nella bandina sono fari tuoi, sono altro che piatti so. Sì. Sì. Tu ha detto Antonello che c'ho anche la faccia da carabiniere. No, che c'è la faccia da carabiniere non me l'ha detto, c'è la faccia da carabiniere, ma proprio stampata o sputicchiata, scusandomi la frase. No, c'è la faccia da maniaco. Che la faccia? Faccia da maniaco. Sei Antonello, scommetto. Oh, io non c'è niente, mica tra le tue cose. Diglielo, diglielo di nuovo. C'è la faccia da maniaco. Me la vado. Stasera. Maniaco. Avete detto che c'è la faccia da maniaco. Quale delle due? Carabiniere o maniaco? No, carabiniere e maniaco. Lo valuterai quando usci. Sì, sì. Ma ci gode una, scusa, ce li hai tutte e due. Giorgio, infatti ho presupposto che la maggior parte di quelli che stanno parlando non mi hanno mai visto. Gli unici che mi hanno visto in questa ruota sono, che mi conoscono in verticale, Pomponio, perché abbiamo avuto una storia insieme, e poi Antonello. Che ha fatto insieme? Vabbè, avevo fatto un furto a coso da poco, ma in una geriatria, ma ti si piace con te tu. E invece resto io, non so io mi sono piato le coppette. Tu, Pierino? Torino, però. Aveva forza, con cucchiaino. Anche quello. Antonio si è comportato bene, grazie. E se ci sta in piazza. Prendi un caso di riso. State facendo un bailano che la metta a basta. Che anche ho avuto una storia con Antonino Pomponi, Ma negativo, cosa hai detto? Ho detto che anch'io ho avuto una storia con Pomponi, Allora recidivo, no, è qua, a mangiare i cornetti. Allora recidivo. Un pochettino di vergogna, dai. Comunque uno non si deve nascondere. Se uno è onesto e sincero, dai, bisogna aprirsi. Dunque di la verità che abbiamo avuto, una bella storia, dai. Chi era il maschio? Aspetta, aspetta, no, Vasco, mangiati via, quanti siamo stati, no? Apri la borsa, no. Adesso mi scrivo fuori, posso girare e mi scrivo fuori. Che cosa? Birreria mi scrivo. Ciao, salvato. Niente, Antonello era la donna. Che schifo. Poi è carino diviso pure, diviso in quattro però. La massa veniva da tutti e due. Volete fare appetizzato per tutti e due? Me la scrivo adesso, guarda, me la scrivo. Ah, non è per quello che volevi la mia amicizia, no? Aspetta, sentato, se la tua amicizia. È bello che adesso non si è accontentato di voi due, adesso c'è anche il mio vicino. Quindi siamo in tre, allora io vieni anche tu, siamo in quattro, facciamo il giro della mondezza, fame e debolezza, non c'è problema. No, ti mando a Falcone, guarda. È sicuro. Chi manca, chi manca? Antonio Giuseppe si è detto bamburino, un buco strano. Gianni. E? Cosa metti in mezzo a me? Non ho capito, non accento io nei vostri discorsi. Io ho detto che non è bastato Antonello e Grosso, adesso pure a te si è attaccato. E vabbè, è non la vuoi. E tanto se fanno ci subito una gente a polli. A proposito, ho già, sai che stamattina ho visto la buonanza della del Ciso, salendo in via Umberto. È urgente. No, no, così. Deve essere che stavano facendo un trasporto. Policina, vuoi entrare o vuoi stare alla scuola? Ho risposto proprio. Patrizia, vuoi entrare? No, veramente stava chiamando me, mi sento tirata in causa. Ma Policina, no, no, io ti ho chiamato con il nome tuo, poi se Gianni ha sbagliato nuovamente, non è colpa mia. No, negativo, io non sono Patrizia. Se tu che stai prendendo un granchio. Oh, un attimo di bianco, che c'è un francese che sta chiamando. Attenzione mon ami, qui c'è un po' del mondo, i tappelli, sia la stazione del Tacomè della Villa Sassarini. Italiano, di dove sei? Io sono di Sassari, nord Sardegna, Italia. Dai, ho capito che sei di Asti. Buonasera, sono il 351, la città di Sassari, nord Sardegna, che ti super convialite la fettona di mano, vai. Vai, c'è un po' del mondo, ben sentito, vai. Io continuo, qua c'è una ruota a Sassari. E ti salutano tutti cordialmente. Avanti, Policina, di nuovo, scusami se ti ho interrotto. Cappa, ma che fine ha fatto Antonio Bombolo? Antonio Bombolo, ho sentito Macchio stasera, era stanco e non è entrato, poi non ci ha trovato. Cappa, no, perché volevo salutarlo, te l'ho detto, non entro spesso, ma quando entro vorrei salutare un po' tutti. Cappa, cappa, vabbè dai, mi mando i saluti da parte tua, dai, non c'è nessun problema, Policina. Assolutamente sì. Paga, ci dovrebbe essere anche Patrizia ancora, dai, rilanciala, così fate amicizia. Avanti Patrizia. Patrizia? sì. Probabilmente si sono assentati, dai. Si sono assentati. Lanciamo tutta Grodd, avanti, Groddino. Il mio amore vive già. Ciao, è che questo qua? E se va nella città. Il palo dei poveri. Attenzione Antonello, Antonello di Ossilandia. E dimmi. Ma ti assenti così, te ne vai, vieni, torni, scompari per giorni, c'era gente che era anche preoccupata, lo sai. Io vi ringrazio, ma mi sa che sono più preoccupato io che tutto il resto, la verità. Non ti preoccupare, te l'ho detto, non ti preoccupare. E lo so, non è facile. La verità è, non avrò nessuno, perché la notte è fatta per dormire, ma la verità sono giorni che non chiudo l'occhio e dunque non lavoro a nessuno e mi preoccupo finché no, la cosa non si sistema, non ci riesco a chiudere l'occhio, la verità, sono fatto così. L'autostoppista me la carico, infatti Roger, e vabbè dai. Il baracchino serve anche per quello, oltre che per mandare eventuali messaggi pubblicitari, tra cui se ne può avere un tornaconto, anche per distrarsi un attimino, dai. Lo so, quello già è vero, però... Carabinieri? No, non è carabinieri, cioè, mia moglie dice, ma questo è carabinieri, ho sillata che c'è la voce da carabiniere. Volante 1 e volante 2, ecco. È cercato. Ma Roger, venite avanti un attimino sulla pattuglia, sulla 23. Pronto, pronto, passami il collega. Avanti 23, ci troviamo a Pietra Sacro Cuore, che è successo? Già ci abbiamo un 53-21. Ma sei chiuso. Antonio. Ma di Roger, vieni avanti, Leoncino. Scusi, adesso, che sto arrivando. Guarda, un po' più basso di prima. E c'è un movimento, non ho capito. Ma di Roger, da che parte ti stai dirigendo? Zona casa mia. Roger, allora una pattuglia a intercettare Leoncino in zona casa sua, prego. La partenza sta andando verso Leoncino. Gazzella, veloce. Ci arrestano a noi. Davvero? Fede mia. Ci registrano, buona. Mica vengo sotto casa tua e ti metto la portante, e non esci mica tu, eh? Dove sei, Leoncino? A parte stai andando? No, entrano per casa, dai. Ah, Rosa, ti ho visto io che stavo a Perdanina, ho messo la fritta. Dovresti passare da questa parte se stai andando verso casa tua, Fai Ponte Nuovo. Cappa. Allora, quando sei di fronte zona Sisa, fermati un attimo. Zona Sisa? Assisa, via degli astronauti. A capa. Che credo ti vuole rimorchiare. Dice, ce l'ha fatta lei, se ce la posso fare io. Attenzione, Patrizia. Patrizia. Attenzione, Patrizia. Attenzione, Patrizia. Nada de nada. Oh, Pomponio. Pomponio. Sentite questa propagazione. Fa, sotto, sotto. Svincolo per andare. Vediamo un po', chi vuole entrare, chi è rimasto? Oh. Io. Io. Io. Ti masci, mamma mia. Il parafru, tutti quanti fuori, io. Non c'era anche... mi è sembrato di aver copiato occhi di gatto, no? Scusa. Fabio, no, sì. Sì, io mi sto ascoltando, Ciao, buonasera. Sì, che stai facendo le orecchie pelose. Peloso, sì. Se no avrei fatto il gioco della calzetta. E chi è questo? Tu sei troppo giovane della frequenza, se no l'avrebbe fatto anche a te il gioco della calzetta. Questo nuovo contratto chi è? Non l'ho copiato bene. Fabrizio, ma occhi di gatto. Buonasera Fabrizio. Buonasera, è da quella parte che c'è. Buonasera, Antonello da Ossilandia. occasioni strane. Lo so, sono quelle cose latenti che alcune persone hanno e che non hanno coraggio di tirare fuori. Chissà che la razza umana è strana e comunque... L'ismo dell'essere umano, capito? Cos'è che stai facendo, Fabri? Che sei impegnato e stai ascoltando? No, niente, io ascolto molto, non è che qui da altre parti, io ascolto molto, vi ascolto. E sono stati prima di entrare, sono stato parecchi mesi, io ogni tanto, io molte volte, spesso ascolto e prima di entrare magari, alle volte entro, alle volte no, però ascolto molto, tu sappi che ti sto sempre ascoltando. Si deve avere paura, questa cosa è una minaccia. E tu lo sai che tra superiori... Antonio. Ah, lo vedi, dove sei, Leonci? Quasi alla Cisa, quasi, vicino. Cisa, già lo sai. Qui non quella di 3 Giovanni Pasquali. Oh, qua delle astronauti sono, dai, di fronte alla Cisa sono. Adesso sei arrivato? Appa. Lo senti come arriva a bomba? Vai, ma scendi e ti fai conoscere per piccare. E sono timido. Ho letto qualcuno, ma la mamma mia è sbaglia. Leoncino! Buonasera! Buonasera, ti sento molto meglio. Antonello, come va? Antonello, è bene, tutto bene? Diciamo di sì, dai. Come ti arrivo dalle tue parti? Sta arrivando 9.10 più 5, dai. E in che zona ti trovi? Ecco, ma stai entrando a casa? Guarda, quando vedi una tartaruga è lui. La tartaruga ce l'hai tu, no? Cos'è? Che apparato è? Aran 100 Plus. Ah, il coso, il... ho capito, l'Aran 100 Plus, ma il Mike non è quello dell'Aran? No. Perché quello lì è barattoloso, non serve a niente quello dell'Aran 100 Plus. Cos'hai messo? C'ho l'elicoso, c'ho l'Aran F10. No, già va bene. La Lancetto Plus è quello che ha 40 canali e c'è AM/FM solamente, no? Cappa. Te lo conosco, ne ho uno e con quello che ho la concessione, che avevo la concessione registrata. Io ho la concessione con questo. Già va bene, ma ti stai allontanando, hai già preso il ponte? Va. Gaba gaba. Occhi di gatto. Ditemi tutto. Giuseppe, se vedi gli appellativi a portare canna. Buonasera, occhio di gatto, da questa parte Leoncino, Ciao Leoncino, ben sentito. Fammi un controllo, ma metti tu arrivando, fai favore. Santiago 9, Radio 4. Cappa. Che zona è? Occhio di gatto. Che zona? Una via Napoli. Beh, già va bene, già va bene. Riprenditela tu, Gianni, doppio ru. L'unico doppio ru è mai che non ce ne sia nessuno. Stai uscendo già? Io ho una mantovaccina. Ho negativo, Leoncino. No. Io ho un'antenna costruita, hai capito? E Gianni già lo sa qual è, da quando è costruita. Bene, io vi saluto, nel caso sentiamo domani, dai, buon proseguimento e buon divertimento, alla prossima allora a tutti. Ciao, Antonello, ciao, buon quasetti, dai. Saluto anche la signora Patrizia. Non stai con gli amici. Ma la verità non sono di buon umore. Ah, vabbè, allora dai, buon QRT, buon 144 quando lo farai, e cordialità anche alla signora. Grazie, ma c'è il caso, ci sentiamo domani, vai. No, noi ci sentiamo domani. Io fai il lavoro. Ciao, mio bello, ci sentiamo, un bacio. Ah, grazie, guarda che c'è Gaussi domani. E poi ce ne andiamo al bacio, ubriachiamo. Da poi quando troveremo, se la via è Napoli, già c'è il coso, il tramvai. Io già almeno un po' di porto a casa, se non c'è problema, il vino buono ce l'ho, problemi non ce n'è. Volga, potuto dormire già mio, già la mia sorella che abita lì a Ossi, qui da Volga. No, perché io sono più del diavolo, morire, dai. Un grande bacione, ma ti amo e buonanotte. Oh, che bello, mamma mia, mi motivo subito. Aspetta un attimo, vado a riprenderti la malattia, Antonetti, stavo dicendo, a che ora rifai domani? Adesso ti ho fatto ridere un po', allora, mi ha fatto piacere. Aspetta, allora domani mi valterò alle 6 e rientro alle 8 di sera, dopo ti ho fatto. Devi salire davvero, Antonetti? Perché? Negativo, parlavo con Antonello Alessio. No, se non è che c'è, ma se vogliamo saliamo, non c'è problema per quello, se vuoi salire da lui, se non stavo parlando ci saliamo, io altrimenti problemi non ne ho, forse lo conosco come se fosse Sassari, capito, perché c'è mia sorella che abita lì, quindi non ho problemi. Ma dai, facciamo così, al limite saliamo anche con la cappotta aperta, così ti spettini i capelli. Forse che ne abbia anche tu capelli. Arrivederci, ci facciamo la riga e mezzo lì con cosa, con la pernice. Facciamo la riga e mezzo, sembriamo due culi. Quando ci abbassi che parte. Io ho capito chi è più mancante, la verità. Comunque, dopo che oggi il signor Pompugni si sta pisciando addosso, Io credo che aspetto che abbiamo due faccine e due teste di culo. Oh. Ma c'è. Sotto casa tua. Ti ho portato sotto. Ma comunque, siccome. Ci sono quelle infermiere che puliscono i culi agli anziani, che non si cagano addosso. No, meglio niente. È quello che ha fatto più attenta io. Allora, solo il campanello te lo metto nell'ascensore, scusate un attimino. Te lo metto nell'ascensore, ti apre e te lo metto nell'ascensore, ok? Grazie Nico Teresato, dai. Ciao a tutti. Vittorio, vi saluto migliore a mio amore, Pompone, ciao amore mio bello. Buonanotte signoro. Ehi, d'accordo, Ci sentiamo domani, mi raccomando. Fate del bravo e buon omine. Ciao, non è vero, mi difendendo. Fai stare bravo, mi raccomando, mi. Se no già lo sai che viene la vecchietta. Avanti Antonio. Ia. Comunque, come ti sto arrivando da questa, da via degli astronauti, meglio? Ma già arrivi bene. Arrivi benissimo. Mi sono accorto di stazionare io, ho abbassato il palo di stazionare e c'era il cavo messo male, quindi bisogna che mi cambi il cavo di per forza qua, perché quando c'è umidità il problema è quello, ecco perché poco fa si chiama il chimo, non ho abbassato per quello il palo andando, facciamo 1-1, adesso che c'è umidità sono salito 3-3. Quindi è il campo, siccome è spezzato un paio di impatti, non l'ha tratto, evidentemente è quello il problema. Ma anche per me, ieri ce l'avevo a 1,5, oggi 1,1, come si è asciugata dentro l'antenna, capito? Infatti stavo usando le mie più 5 e adesso sta andando una bomba, gli ho messo quel filo di massa che mi hai detto e in più gli ho aggiunto, come mi ha detto Claudio, 3 radiali, una figata. Ah, hai fatto quella gente che ti ho detto io, di mettere il telefono a fare a prova la lingo. Più o meno è la mezz'ora, quindi non cambia nulla, cioè tra la lingo che c'è tu e quella che c'è Antonello, Antonello c'è la basetta, è precisa identica alla mia, c'è il fuori, c'è tutto, basta comprare il cerchietto, si mettono tre radiali e pompa quanto una cosa, quanto una 50 navi. Gli ho messo, lo sai che cosa? Una quadrella, si chiama così, quella che è per mettere i filanti al palo, ne ha tre, c'ha tre buchi, gli ho infilato tre radiali comprati di da Bricoman a 1,50 euro, e davvero sembra la mantova. Esatto, ma cos'è pigliato, radiali alluminio o radiali in vetro resinale? Cos'è pigliato, alluminio Sappiate, un metro e mezzo, non è pigliato. Terrorismo non serve a nulla, a te vedi, per terrorismo. Cosa? In alluminio. E sono un metro e dieci. Quella lì è misura, se non mi ricordo male. Cioè, 1,10, 1,20, una cosa del genere dovrebbe essere, comunque. Va benissimo. Se tu consideri che l'antenna costa 38, i radiali più il sostegno ne costano 7, con 45 euro ottieni lo stesso risultato che ottieni con un'antenna a 150. E però se tu, tanto tu c'hai quella gran presa, mi sbaglio, se c'hai radiali lunghi, quella gran presa, dico gli, quelli corti ci metti quelli della gran presa, qua fa il doppio. Stai aumentando i radiali, fa più, come si dice, radiazione orizzontale. Esatto, siccome devo farlo io adesso, questo lavoro qua, così alla mia, voglio solo due radiali, mi manca il terzo, se vuoi scendere in campagna, non so se ci scendo domani oppure ci scendo e faccio quel lavoro, stacco quelli originali, ci metto quelli della Grand Prix, poi più devo andare su il palo e vedrai come cambia. Sono questi qua che li ho messo io, sono vuoti, sono tutti vicini vuoti. E vabbè, anche quello che c'ho io sono della Grand Prix, sono vuoti all'interno e poi c'è lo stilo che esce fuori. Ma con questa cosa stai uscendo bene, stai uscendo molto bene. No, non sto uscendo bene per niente, c'è qualche cosa nel cavo c'ho io, perché non è possibile. Stasera tutto il giorno 1-1, è perfetto, non è stata passata per quello. E adesso che mi sono poco fa, mi sono quando mi ha detto stai fischiando, ho controllato un metro di stazionale, quindi vuol dire che il cavo è in corto. C'è il cavo che devo cambiare. Ci metto il G8, faccio un garage, faccio la misura giusta e metto quello. Quello già ci vuole poco, stacchi il cavo il PL, visto che ce l'hai all'altezza per poterlo staccare, e lo metti e lo controlli col tester. Infatti, non so, me lo compro il cavo del G48 della Bianco, non mi costa niente, quanto sono 20 metri, quello che è. Non costa neanche molto, me lo compro e se la Bianco. Allora c'è, mi sembra gente in bianco, Giuseppe, ci dovrebbe essere anche Gianni, avanti Giuseppe o Gianni. Mi stava dando roba e si è fermato al QTH. No, già fatto. Avanti, dai già. Questo papà non clicca. Se non ho cenato, sono a dieta. Ah, dieta. Si sente che sei a dieta. E se tu non ci fai cenare, mangi clicker. Non posso che sia accorto. Ma se ne mangio più il cracker, altro che dieta, gusta, fregatemi. Che poco fa se posso mangiare un piatto di pasta e pomodori. E basta. Poi c'è un po' di coso, di quelle pugne di campagna. No, neanche assaggiata la verità, ci vanno nelle fatte con coso, come la fate Simona. No, neanche assaggiate adesso. Quello l'ho ricevuto in bagno subito. Si chiamano pugna perché è pugna. E ce l'ho per il piede in campagna. Ci devo scendere qua. Sono sceso l'altro giorno e ci devo scendere a farmi, ma che se ne facciamo gli altri. Ce l'ho per il piede, adesso poi come è piovuto questo ieri. Sono tutte già cotte senz'altro. Ma a me personalmente non piace. E quando c'è bisogna mangiare, so se ne mangiano gli altri, quindi. Ma a me questo periodo mi piace un bello, anguria, le ciliegie. Oh, ciliegie non ne ho più, anguria nemmeno. Pere e mele c'ho a me, non le pere le fatti in agua, no, le pere normali. Pere di quelle piccole. E via. Ho capito. E quelle secondo che qualità sono buone. Mi piacciono molto le regine. Ah, appena ci sono pronte, ti avviso così scendi per le fai. Guarda, quelle regine sono ben buone, sono dolci dolci. Ma l'anguria a me mi appassiona, a me questo periodo proprio non ne faccio certe scorpacciate allucinanti. E questo qua. Come conosciuto l'hai a Luci? Pronto. pure uno perfetto. No, negativo, non l'ho conosciuto. Gli unici che mi conoscono in verticale a me sono sono Pomponio e Antonello. Anche il mondo ma Roger, ma non se ne ricorda, se mi vede non mi riconosce. Non lo so. Cambiato, poi io avevo ancora i capelli lunghi quando mi ha visto lui. Da Frocio, già. Da Multifrocio. Da Multifrocio, beh, si sapeva che assomigliava a Paoletto. No, Paoletto. Oggi la vedi andando, lì che... Cos'è già? Dito che ci avete preso in tocco di chi? Vabbè dai che mi sto pigliando la bustina per far passare il mal di denti. E c'ho un mal di denti che mi sta scoppiando. Cazzo, la bustina di droga, ciao, bustina sta mettendo, la bustina, che cosa stai prendendo? Antifiammatorio? State nei fan. Misure. Non ti fanno overdose. Giulide, anche detto Aulin. Appa. Cos'è che lo stai prendendo? Bide per il mal di denti. Che denti hai? Cappa. Come mai? Questa cosa, in questo periodo, soffro molto di cose, no? Di denti, no? E dunque la roba fredda e la roba là mi fa brutto cose, già. La fredda che la calda, allora c'è qualche radice mucata. Fatto dire da uno che il consul gli hanno praticamente, il dentista gli ha trappanato il dente, gli ha otturato, gli ha fatto. Io sentivo se processo cosa, la fine mi sono fatto fare una radiografia e c'avevo la radice bucata e lui curandomi il dente. Papà. Cosa vuoi fare? Lasciamo perdere i denti miei che sono messi male tutti qua, vogliono tutti fuori e rifatta tutta la bocca già. La dentiera scorrevole, fatti voi me. La dentiera scorrevole. Perché non si sente anche un po' il raffreddore? Ma come mai? Ce li hai guasto o che cosa? Ce li ho... Diciamo che... questi qua me li toglievo io, sono o io mio padre con lo straccio, capito? Quando c'era un dente mi facevo un po' con te, auguri. Lo straccio, capito già? Risparmiavi 100 euro prima si trovavano con lo spago, si attaccava la maniglia della porta e poi gli stava a braiare la di colpo e tu chiusa qui, non c'è avuto scatto ma con il fratto Luchitra, buonasera a tutti. Oh, iaia, per carità. Allora casino Luca Perugia. Abbiamo un gamma, poi questo è il palo, se io abbasso ce ne ho 911. Che sta facendo il palo, si sta facendo la cosa, come se fosse più polo, che più lo allunghi e più sembra che allunghi il braccio. Ecco, cazzo, adesso capisco bene quale sto diventando adesso, lo sono diventato adesso, adesso proprio. Io lo viene provare su conto manico del G8, vediamo se fa lo stesso difetto. Se non c'è qualche cosa strana, ma che sono c'è nelle. È un'antenna, perché il capo in pieno, adesso vediamo un po' domani. 1,4 quasi 2,5 stazionale, diciamo. Adesso metto l'accordatore. Allora, così sono a zero. Adesso, perfetto. Dimmi una cosa, ma è cortocircuitata come antenna? Sì, è cortocircuitata. Qui bisogna essere in due. Allora, un momento fortuna, va bene, adesso me ne trovo le palle. A questo punto quando cambio adesso l'attacco e la metto attaccata nel muro di fronte, ecco, quando piazzo le gaffe facciamo le prove, perché è una cosa un po' strana. Sarebbe da mettermi un palo, un coso di vetrovese, non di plastica, e vedere se fa la stessa cosa, capisci? Non lo so, ma è una cosa strana. Vabbè, me l'ha fatto che se la buccia di Vittorio, te ne sei accorto, ma guarda che attacco lo sto fischiando. Come se mancasse la massa, è una cosa un po' strana. Poi stavo lavorando bene, come sono le due, le tre. Poi ha piegato il tappo, non so se è PL o se è la controllo, non lo so. Luca, a te quanto arrivo? Aspetta, sai come puoi fare, Ali? Per vedere se gli manca la massa, è semplice, basta che prendi il PL e col coso, col tester misuri la resistenza ohmica dal piede, dalla calza del PL al palo. Io non preparo così una cosa della gente, comunque potete dire, farlo per forza in due, da solo non ce la fai, non è vero. Quindi al momento opportuno la controllo fuori, mi porto tutto il capo vicino e poi ci controllo. Ma la cosa devo voglio vedere un pochettino la cosa, anche perché la tratta è 1-1, perfetta, se io scendo il palo a livello dove eravamo due seduti, 1-1, sollevo di 1,5 metri, sale. Dovrebbe essere il contrario, perché più sale l'antenna più meno stazionaria, anche perché ha più piano di massa. Non l'hai detto. Secondo me gli sta facendo come da dipolo, capito? Che si allunga un braccio, sta facendo da polo freddo il palo. Ascolta, ma non è che tu lo ostacoli come tu lo sali, no? Non lo so, il caminetto c'è anche quando io scendo il palo, c'è anche il caminetto lo stesso, non c'entra niente. E il caminetto lo stesso c'è. Boh. Non lo so, la verità, guarda. E la controllo da solo e non te la accorgi, te la controllo forse in due, uno attaccato al banchino, l'altro vicino all'antenna, potrebbe essere magari anche un falso contatto della carica, perché se ripeto durante la prima la rispedisco, non me ne frega niente. A volte succedeva che c'era il filo della cosa che era staccata, succedeva anche nell'elemento, ma fatti il conto, il filo della carica. Perché la veste non sembra saldata, poi non lo so. E da vedere, però da solo non te ne accorgi, mi hai scelto forse in due. Sabato veniva che la facciamo in due e vediamo qual è il problema di questa antenna. Col test, una volta piazzata, la sollevo quello che è e controllo un pochettino cosa devo lanciare. L'antenna non ha niente, se avesse avuto qualcosa anche bassa avrebbe dato problemi. Non lo so, guarda la cosa strana. Solo che da solo, come fai così? Se tu ti atti l'antenna sopra il tetto e poi sei giù, controlli e la sollevi e la cosa, la base va alta, boh. Allora lì ci vogliono due portate o un portate da Parigi e comunicare uno con l'altro. Porta i miei PMR, dai, lo facciamo con quelli. C'è io il PMR, non è per quello il problema. Per quello ci sono problemi. Che la stai usando già? Sì. No, Antonio. MRO. Antonio, che antenna stai usando? Che so. telefoni. Non ho capito di niente. Occhi di gatto sta scambiando per Mombolo. Ah. Ciao occhi di gatto. Ciao Alessio. Chiamato Pomponio. Ma perché l'hai chiamato Mombolo? Boh, ho scambiato, ho sentito latte dolce. Lui, ma da dove stiamo modulando? No, si è fatto a passo per saltezza. E con me li puoi segnare. Questa va bene, stavo sentendo la storia dell'antenna. Che antenna stai usando? La mia 27 che sto usando. E come sollevo il palo, la cosa è tanto in aria. Però scendo a metro e mezzo, scendo a 1,1. È strano, ma cos'è una 5 ottavi o un mezzo? Una 5 ottavi, eh. Ma è bello questo effetto, non l'ho mai visto io in vita mia. Ne ho visto di tutti i tipi, ma tale che questo. 1,4 stabile. E se adesso vado fuori, guardate per il segnale, scende il palo e scende la linea stazionale. Guardate il segnale e dimmi se magari vedo qualcosa. Poi è una cosa strana questa qua, perché le 5 ottavi risentono molto del piano di terra, quindi sollevandola dovrebbe migliorare. Lo so che sollevandola dovrebbe migliorare, sì, ma invece questa fa il contrario. Ho fatto la trattura, l'ho fatta giusta, 1,1, perfetta, cosa del genere. No, perché anche poco fa sentivo il discorso delle antenne. La mezz'onda non è vero che va peggio della 5 ottavi, dipende in che condizioni si fa lavorare. In alcuni casi potrebbe andare meglio la mezz'onda che la 5 ottavi, e in alcuni casi ancora non vedi nemmeno la differenza in base all'altezza che la piazza, all'altezza del suolo, in quale palazzo è montata, eccetera, eccetera. E forse per i DX in alcuni casi lo stesso va meglio la mezz'onda. Aspetta un attimo. QRT per me, o meglio QRX, poi QRT in un secondo momento, sto ad ascoltarmi un attimino. Ben sentiti, ben ascoltati, e ci sentiamo alla prossima. Antonio Grotte vi super cordializza e vi saluta. Ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, stammi bene allora. Comunque la mezz'ora, la 50, la mezz'ora la lingua come si usava una volta, io ho provato con la Gran Pei e andavo molto meglio a distanza, perché ho fatto le prove da stasera a provare, occupavo molto più la lingua che la Gran Pei. Quindi è molto meglio la mezz'ora a distanza che in città, va bene la Gran Pei, esce molto molto meglio, anche la stessa cosa anche la Mantova. Vanno molto bene in distanza, città non è che siano, abbiano grandi differenze come segnale, quali a poca roba. È tutto un discorso in lungo su un mezzo e 5 ottavi, è lungo, però comunque dipende da tante cose, e in lunga distanza forse la mezz'onda potrebbe anche andare meglio. Infatti. Grigato. E dimmi. Beh, adesso come ti sta arrivando? Basso. Prova. 1, 2, 3, prova e controllo. Santiago 3 e mezzo, la radio un po' bassina, però Santiago 3 e mezzo. E K. Prima 5 Giuseppe. 5 sta arrivando lì. 5, questo bacio ti ascolto con questo qua. Tu già vivi. Bravo. Da dove stiamo modulando? Io sono alla fine di Via Valletta, qui a Montefurro. Sei a casa in macchina adesso? Casa. Ebbene, io sto uscendo, io non uscivo a nulla, oggi sto uscendo con l'antenna. Mi pare peggio della mia. Forse è sbagliato lei, ma che è appiccato, arrivavi, da un po' scazzolata. Ti sento, te sto dicendo ti sento, ma non ti sentivo per niente, adesso ti sento. Ti sente lui là dentro la via Napoli, figurati. Come lo senti tu la via Napoli? Io lo sento 7 volte e mezzo, la radio non è fortissima, però lo sento 8 e mezzo. è buono, o quello dipende dall'apparecchio, e quindi non ha una radio ottimale, se no sarebbe arrivata a bomba. Basta che metta il microfono, metta l'amplificazione di quel microfono, Giuseppe. Passate vicino a bocca al microfono, vedete che c'è ancora di più forte. Ho notato una cosa, che dalla macchina c'è un po' più forte che da casa con quel microfono. Ma oggi si sente, Giuseppe, io sentivo proprio per niente mio... il discorso è quello, è una cosa un po' strana, ho visto quell'antenna, cosa vuol dire? Io ho pensato, l'altro giorno ho pensato la bazooka addirittura, che qui l'ho messo, appoggiato al petto, mi senza massa, senza niente, usciva forte, mi sentivi anche tu, messa a casa sua, sembra una disviata, sembra, o qualsiasi antenna rimpiazzi, esce strana, a casa sua, non è possibile, esce più forte dalla macchina che da casa sua, non è una cosa strana. Se vuoi prendere una mantova lì, vedrai come esce. Se prendo una mantova lì esce tutto il palo, l'antenna anche giù, sotto casa sua, no? Hai visto come il pezzo? Non può pensare proprio, no, una cosa simile non può neanche metterla, ma neanche scherzando. L'unica cosa che puoi pensare è un palo a 2 metri, 3 metri telescopico, con o una ringa o una PMT7L che è leggera. Perché se passa la moto va in straccia, prima il muro, poi si trova il palo e l'antenna sotto casa sua si trova. E c'ha solamente 20 centimetri di cosa, di muro, c'ha, non c'è altro. E c'è il tetto che è un metro di larghezza, e puoi solo sedere e installare il coso così, se no ci scendi giù, ci scendi. Ci vuole la scala aerea, adesso ci sono i metri. Ci vuole la scala aerea, sì, ma ci vogliono anche 1000 euro per la scala aerea. Non l'hai detto. Allora prendo una scala di quelle, tipo quelle punti che si allunga l'una con l'altra. E tu ci salvi? No, ci mando un pompiere. Allora i pompieri si pagano. Non è che poi chiami i pompieri e dici mi piace andare al baracchino? E io ti dico, ma guarda se manco. Paga, me lo so. No, scherzavo comunque. È un problema, a conoscere qualcuno che aveva un camion con la gru, col cestello, non ci vuole nulla. Lo so, ma purtroppo non ce l'è. Il discorso è quello. No, che poi, qualsiasi cosa avanti la devo risalire, quindi è un casino. Una volta che sale lì l'antenna, la piazza è morta. Succede qualcosa, rimane morta lì. Ma se non rimane? E appunto se non rimane. Avanti, ho figato. Dov'è che abita? Via Badimanna. Cos'è? Non riesce a salire sul tetto? Non si può salire sul tetto perché dove abita lui, abita all'ultimo piano e la madre ha chiuso tutto, capito? Qui non c'è nessuno, non ci faccio sopra il soppartetto. Mi sa che il soppartetto aveva la scala aerea, perché hanno fatto la mansarda e l'ha chiusa. Ho capito, ho capito. Allora, Diabolik o la scala aerea? Diabolik già ce l'ha vicino la casa. Chiamalo. No, Ale, andiamo insieme, io ti metti sotto e io ti salgo sopra e mi arrampico. Sì, se ci siamo tutti e due... giù nel piano di sotto, perché c'è solo un metro di tetto di larghezza per poterti mettere, e poi anche inclinato, figura, poi è stato piatto almeno, avete potuto pensare una scaletta, agganciata, ma siccome è un po' in discesa, via mare, capite, l'ha fatto a tegola, poi è stato fatto a cemento, piatto, si potrebbe anche fare un discorso del genere, di mettere una scala, appena appena inclinato sei salito su per dire. Ah. Io ho capito, ho capito. Vabbè, perché da lì dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare. Certo che dovrebbe arrivare. Mi metto lì vicino. Ma tu arrivi bene. Sbaglio che abbiamo fatto noi è di aver dato quella cosa a quella persona là che non stava utilizzando, o quella arrivava anche a bomba, se te lo ricordi. Una canna a pesca, vabbè. abbiamo dato la tarina perché dice che voleva entrare, invece è entrato un accidente. E quindi non ha attaccato l'accidente. Già ricostruiamo, si può ricostruire uguale. Basta buscare una tavola pesca precisa, la ricostruisco, non è che ci vogliamo questo granché a farla, è un dipolo verticale. Non c'è bisogno di massa, di essere aperto in questo paletto, esce lo stesso. Comprare una Ale. Capito già. Ma comprare una decina di scala da pesca. E i soldi ci vogliono per comprarla. Non li te la regalano. Dicilo. Dicilo per Giuseppe Sommurdimi. Già lo stavo pagando, figurati tu. Se deve essere un usuraio. Io ce l'ho la canna pesca, ho già, io ce l'ho quella a due nicchi, hai capito? Io ce l'ho libera, la vista anche adesso, la facciamo quella lì, l'unica è quella. Se usiamo quella, Giuseppe, cosa vuol dire che hai domani? Se non lavoro, facciamo quella lì, scendo col cavo e facciamo quella. Cappa, se non stai lavorando, se non ti chiama a lavorare. Beh, se non mi chiamo a lavorare va bene, ma se mi chiamo a lavorare mi capito la giornata per fare una canola a pesca, no? Quindi... E va bene, allora... Io me ne passo in correttia adesso che mi sta già prendendo il sonno. Ci sentiamo Giuseppe, ciao Gianni, ciao Fabrizio, oh Giuseppe, se non vado a lavorare entro verso 9 e mezza a baracchino ti faccio chiamata sul 5, non sul 5, dai, sul 14 ti chiamo. E così passi qua, no? Vabbè, anche le 10, su quanto è stato terminato quell'ora lì, capita alle 10. E appunto per quello meno ti alzi con calma, e sei tranquillo. D'accordo, buonanotte a tutti, dai, statevi bene, ciao Giuseppe, ciao Gianni, ciao a tutti, vi dice ci sono, Fabrizio, eccetera, eccetera. Statevi bene, buonanotte. Buonanotte e buon 144. Anche per salutare a tutti, faccio correzione anche io, che non ho mai rimasto una festa. Ciao Fabrizio, ciao Roncino, ciao a tutti gli amici che stanno all'ascolto, buonanotte a tutti. Ok, anch'io passo in QRT, buon 144 a tutti, che domani anche io Alessi mi devo alzare. Buonanotte a tutti e alle prossime. Ciao ciao Fabrizio, ci sentiamo, no? Ciao ciao, buonanotte a tutti quanti e buon 144, un po' fatto male, dai. Ciao ciao, e anch'io sveglio, ciao ciao. Ciao Leoncini, te and...